Storiacce d'autore di Raffaella Calandra. Ucciso a fucilate mentre aspettava l'autobus per la scuola. La vittima è un ragazzo di 19 anni incensurato, Gianluca Monni. L'omicidio è avvenuto davanti agli altri compagni in attesa del bus alle 7:30 nel centro di Orune, in provincia di Nuoro. Su bene beniddu mandadu caru, binti cum pansus de samensus bola, chi desaffabile forte parola, mi dan su coru, po su cantu raru, po custas rimas chi non batti scola. Mi hanno dato il benvenuto 20 amici per dare coraggio ad ogni forestiero che scende in fretta e per rafforzare la compagnia resta contento della cortesia. Possono i versi di un improvvisato cantore sardo diventare il pretesto di morte per due ragazzi e risvegliare l'antico sapore del ferro e i fantasmi mai sopiti del cuore della Barbagia? L'invito alla cortesia, il richiamo alla compagnia, l'accoglienza del forestiero. Queste ottave parlano di cultura dell'ospitalità, la stessa che ispira tra l'altro la festa di Cortes Apertas di Orune, in provincia di Nuoro, e come in un gioco di paradossi e contrasti è proprio in tutto ciò che è maturato il delitto di Gianluca Monni, studente ucciso a colpi di fucile mentre aspettava il pullman per andare a scuola, e la scomparsa ancora senza soluzione dell'amico Stefano Masala. Dunque, in una festa dove le porte si aprono ai visitatori con scene di antichi mestieri e larghi sorrisi, e tra le rime di un'improvvisata poesia è montata invece la rabbia che è diventata offesa e poi feroce vendetta, perché in quel forestiero evocato nei versi si sarebbe riconosciuto Paolo Enrico Pinna, minorenne a fine aprile 2015, quando avrebbe chiesto l'aiuto del cugino, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, per lavare l'onta subita mesi prima. Il fatto cioè di essere stato picchiato durante la festa delle corti aperte per aver infastidito la fidanzata di Monni. Picchiato e disarmato della pistola che aveva puntato. Un delitto nel codice barbaricino? Si interrogano i media di tutta Italia, riaccendendo riflettori su borghi e campagne ben poco conosciute, a dire il vero. E piuttosto quasi condannate all'eterno ritorno di un marchio passato, si infervora Marcello Fois, che la sua Barbagia racconta anche nell'ultimo libro, Luce Perfetta, edito da Einaudi. Certamente non sarebbero immagini troppo appetitose per chi ama l'idea che i posti siano uguali a se stessi e che dei posti si debba parlare solo per alcuni argomenti e non per altri. Della Barbagia si parla generalmente per fatti di sangue, nonostante il fatto probabile che è uno dei territori meno delinquenziali d'Italia in questo momento. Quindi è incredibile quanto questa, diciamo così, questa prospettiva delinquenziale sia rimasta attaccata a questa terra che invece ha delle prerogative meravigliose, ha una natura stupenda, ha una popolazione stupenda. Il pregiudizio e il luogo comune a volte può restare attaccato come il peggiore tanfo a luoghi che possono cambiare nel tempo e nel modo, questo è vero, e delitti come e più cruenti di questo si sono pure consumati in strade ben lontane da questo misterioso introterra sardo. Eppure, alla ferocia di colpi di fucile sparati su uno studente che ripassa la lezione e alla scomparsa ormai considerata delitto dell'altro ragazzo Masala dopo avergli rubato l'auto nel tentativo ipotizzato gli inquirenti di far cadere su di lui i sospetti dell'omicidio, si unisce ad aggravare tutto il silenzio profondo di paesi, di quello di Orune innanzitutto e di quello di Nule, da cui proveniva il presunto killer, esplicitamente lamentato dai magistrati. Non c'è stata una collaborazione da parte della popolazione, quindi è stato necessario scandagliare a fondo la vita dei ragazzi per cercare di qualsiasi aspetto che in qualche modo potesse aver determinato una reazione di questo tipo. Nessuna collaborazione dalla comunità, dalla gente di questi borghi ben diversa dall'allegra apertura, dal senso di unità e festa delle Cortes Apertas. Eppure, è nel passato della sua storia più lontana, quella che va indietro fino all'annessione all'Italia, che va cercato, secondo Marcello Fois, il perché pure di questi ostinati e contemporanei silenzi. Dove lo Stato latita, la gente si convince di poter, come dire, di poterlo sostituire ritornando alle vecchie brutte abitudini. E in moltissimi casi la Sardegna ha dimostrato esattamente l'opposto, cioè ha dimostrato che dove lo Stato era presente i sardi hanno collaborato in massa a risolvere delle situazioni. Certo non, la situazione del nostro territorio in questo momento è veramente più drammatica di quanto si pensi, ed è drammatica anche considerando il fatto che certo non ci aspettiamo niente, diciamo così, dal governo nazionale, ma ci siamo dovuti rendere conto che non possiamo aspettarci niente nemmeno dal governo locale. Ecco, questo io credo che questo sia il motivo per cui poi le resilienze vengono a galla a un certo punto, quando veramente si pensa che non sussista e non consista la tutela. Tra Nuoro e la recentissima provincia dello Jassra si stende questa terra di rocce, paesaggi selvaggi e ricordi antichi, come quelli dell'Hotel Supramonte, cantato da Fabrizio De André, che qui fu tenuto ostaggio. Imprendibile, difficile da conquistare, barbaria la chiamarono questa terra gli antichi romani, che non riuscivano ad espugnarla. Ed è qui, tra altopiani rocciosi, tra lecci e corbezzoli, tra castagni e sugheri, che nacque il codice barbaricino. Il codice barbaricino era una forma di ordinamento pre-statale. Non si considera mai abbastanza che a questo territorio, che era diventato pezzo di un territorio nazionale, non l'ha detto nessuno, nessuno ci ha avvertito, nessuno ci ha consultato sul serio. Noi l'abbiamo capito attraverso le gabelle e attraverso gli eserciti, sostanzialmente in questi modi. Poi l'abbiamo capito perché gran parte del territorio è stato disboscato per ottenerne del carbone. Poi l'abbiamo capito perché gran parte del territorio è stato trasformato a piacere del regnante di turno, che non amava la macchia mediterranea, e quindi ci ha innestato pini, abeti, voleva la vegetazione alpina e così via. Quindi se non si concepisce, diciamo così, questo punto di partenza, forse tutto il resto è abbastanza relativo. È certo che noi abbiamo vissuto un rapporto non precisamente armonico con lo Stato che ci ha in qualche modo annesso, e abbiamo vissuto un rapporto non armonico perché non siamo stati consultati. Tuttavia restiamo ancora una delle popolazioni che vuole più bene a questo Stato. Noi il nostro certificato di residenza in Italia l'abbiamo firmato con migliaia di morti sul Carso. Non siamo certo annoverabili tra quei territori che hanno preso senza dare nulla. Abbiamo dato molto e ricevuto assai poco, in verità. Che cosa resta in questi paesi, in questi territori, di quello che lei anche ha definito il sapore ferroso dell'odio millenario e uno sguardo sghimbescio della vendetta a freddo, che pur negli anni passati, molti anni passati, pur si è consumato? È rimasta la porzione endemica di queste cose, dentro un abbracciare la modernità anche da un punto di vista dei rapporti sociali. Certo è rimasta una sacca di arcaicismo, ma che dovremmo dire allora di semplicemente dei tifosi di calcio, degli ultras che ammazzano le persone a calci, insomma, quello è veramente l'uomo di Neanderthal. Questo non per giustificarlo, voglio dire, io ho una carriera di critica totale nei confronti dell'idea che la prepotenza possa avere ragione. La prepotenza non ha mai ragione, la civiltà ha sempre ragione. E il valente ha spesso torto, perché pensa che l'arma per dialogare sia la prepotenza, appunto, sia la vendetta, sia l'odio ferroso, eccetera. All'interno appunto di tutte queste riflessioni che stiamo facendo su una terra così complessa, che è una anche di quelle terre che forse come altre, forse anche più di altre, è vittima di immagini precostituite e anche di luoghi comuni, diciamo, rimasti senza aggiornamenti successivi, Quando qualche mese fa appunto si è consumato questo bruttissimo delitto ad Orune, la morte di uno studente mentre stava ripassando la sua lezione sulla la fermata dell'autobus, e poi è venuto fuori che appunto era stato ammazzato per una un interessamento nei confronti di una ragazza per una poesia mandata su WhatsApp, e c'è la scomparsa ancora di un altro ragazzo di cui non si è ancora avuta traccia, in cui una storia in cui la modernità anche della tecnologia, e anche qui viene la parola arcaicità appunto di alcune reazioni rispetto ad un affronto sembra quasi subito. Come ha letto, come ha pensato, come ha interpretato questa brutta vicenda che è capitata? L'ha interpretata come un ordinario, orrendo delitto contemporaneo, senza di giovani informati ma non formati, che sanno usare un cellulare ma non sanno in qualche modo delineare un rifiuto, che non riescono a reagire ad un no. Non mi sembra ci sia niente di diverso da molti molti delitti napoletani o del Varesotto. Mi sembra deprimentemente ordinario. Devo arrendermi al fatto che ci siamo adattati anche a questo. Continuiamo nella seconda parte di Storiacce d'autore ad addentrarci nel cuore della Barbagia. Storiacce d'autore. Ucciso a fucilate mentre aspettava l'autobus per la scuola. La vittima è un ragazzo di 19 anni incensurato, Gianluca Monni. L'omicidio è avvenuto davanti agli altri compagni in attesa del bus alle 7.30 nel centro di Orune, in provincia di Nuoro. A sparare sarebbero stati in due, entrambi a volto coperto. Monni è stato raggiunto da almeno 3 colpi mentre era seduto poco distante dalla pensilina dell'Arst. I killer sono poi fuggiti su un'auto. Il ragazzo studiava all'istituto professionale Alessandro Volta e doveva sostenere l'esame di maturità. Indagini difficili per i carabinieri, che passano al setaccio le ultime ore di vita della vittima, descritta da tutti come impeccabile. Il giovane viene definito un ottimo studente, pacifico e socievole. Un unico piccolo neo emerge dal racconto degli amici. Poco tempo fa Gianluca aveva litigato con un gruppo di ragazzi che avevano infastidito la sua fidanzata. E da quest'unico piccolo neo della vita di uno studente irreprensibile si arriverà mesi dopo a ricostruire almeno in parte il delitto della Barbagia, la storia di un'offesa iniziata durante la festa di paese, l'offesa di essere fermato e disarmato, un'offesa montata anche coi versi di una improvvisata poesia diffusa via WhatsApp ed esplosa poi con un duplice delitto, senza poter escludere ulteriori intenti di vendetta. Lo scrive chiaro e tondo il GIP nell'ordinanza che ha portato in carcere Paolo Pinna, minorenne all'epoca degli omicidi, giovane di cui la stessa madre aveva paura per la sua violenza. E in carcere finisce pure il cugino Alberto Cubeddu, anche se più grande per il giudice, è succube del primo. Il bisogno incontenibile di lavare l'onta subita in una serata di festa, quella facilità nell'uso delle armi e l'attitudine alla prepotenza avrebbe portato ad organizzare tutto, ma metà del mistero della Barbagia è ancora insoluto. Rimane aperta la necessità di continuare le indagini per il recupero di Stefano Masala. Rimane aperta la necessità di svolgere indagini per il reperimento dell'arma usata per l'omicidio di Monni, nonché per il reperimento dell'arma che è alla base del movente dell'omicidio Monni, ovvero di quell'arma, tra virgolette, saltata fuori durante il bisticcio tra Gianluca Monni e Pinna Paolo durante i festeggiamenti di Cortes Apertas. Che fine ha fatto Stefano Masala? Da dove è sparito il corpo di questo 29enne dalla faccia seria e il sorriso buono, scomparso il giorno prima dell'uccisione di Gianluca Monni ad Orune? Comincia infatti il giorno prima del delitto il mistero della Barbagia. Comincia ad Anule, paesino di 1300 anime, il 7 maggio 2015 e si compie il giorno dopo, a 26 km di distanza, sotto quella pensilina dell'autobus dove un 19enne è stato ammazzato a colpi di fucile mentre ripassava la lezione. Più di un anno dopo è ancora avvolta tra rocce e boschi la fine di Stefano Masala, ucciso per rubargli l'auto e soprattutto per depistare e far cadere su di lui i sospetti della morte di Gianluca. Per 12 infiniti mesi l'ha aspettato la mamma e proprio quando gli investigatori hanno arrestato i due presunti responsabili del duplice omicidio, pure lei è morta. Da qui riprendono allora le indagini su un caso che ha fatto ricordare al resto del paese la Barbagia, il cuore antico e più interno della Sardegna e gli antichi fantasmi di questa terra che fu di pastori, banditi e sequestri. Lei si chiederà perché a Borgosolo avvengono tanti delitti, mentre negli altri paesi vicini che hanno quasi lo stesso livello di vita avvengono di meno. Il fatto è che a Borgosolo vi sono queste foreste e questi monti che gli altri paesi non hanno e che permette di nascondere sia il bestiame rubato e sia i fuorilegge. Nemmeno nel piccolo cimitero di Orgosolo riposano in pace. Ogni morto è un anello che si aggiunge alla catena di vendette. Anche oggi c'è un uomo alla macchia che prepara la sua vendetta. Si chiama Giuseppe Muscau. Noi, donne di Orgosolo, siamo le vere vittime di questa vita. Ci vengono strappati i nostri padri, i nostri fratelli, i nostri sposi. Chiediamo un po' di pace, soprattutto per i nostri figli. Perché? Perché tutto questo? Il pastore orgolese vive di pane e miseria. Non ha che il suo gregge. Per trovargli un pascolo entra nella proprietà altrui. Per difenderlo, uccide. Come vanno i pascoli quest'anno? Stiamo andando da male in peggio. Questo è il simbolo dell'annata cattiva. Quest'anno gli hanno fatto la legge dello sconto sui canoni d'affitto, così che gli agrari non vogliono affittarci il terreno. E siamo obbligati di restare qui in montagna, che sta cominciando a nevicare. Se continua questo tempo si rischia di perdere tutto il capitale. Sarebbe il lavoro della nostra vita. Sono il medico condotto di Orgosolo. Da 7 anni vivo tra queste popolazioni. Il mio parere sui fatti delittuosi che si verificano in questo paese è che dipendano dal protrarsi ai nostri giorni di usi e costumi in auge centinaia di anni fa. Ciò in parte dipende dallo stato di isolamento in cui vivono le nostre popolazioni ed in particolare i nostri pastori. Si potrebbe ovviare a questi, diremo, inconvenienti portando le nostre popolazioni allo stesso livello degli altri paesi d'Italia, con la scuola in particolar modo e con il lavoro. Questo medico li vede nascere, non li vede quasi mai morire, perché se sono pastori non muoiono nel loro letto. Qui i furti di bestiame non vengono denunciati ai carabinieri, c'è un giurì il quale assolve o condanna. È un angolo di Sardegna questo avvolto ancora nella notte dei secoli, una Sardegna diversa da quella che le industrie e il lavoro stanno affrancando dalle antiche schiavitù. Muscau, l'uomo alla macchia, era un pastore come questi. Oggi, per rispettare la sua legge, è diventato un bandito. A te ti hanno rubato 40 pecore, tu ne hai rubato 20. Allora la maggior responsabilità è la tua, perché hai cominciato da prima. Datevi la mano e restate in pace. Dov'è Muscau? L'abbiamo cercato a lungo e un giorno su questo viottolo ad aspettarci c'era lui, Muscau, detto Grussotto, l'uomo alla macchia. Su Muscau pende una taglia di 4 milioni, lo braccano da 3 anni, è al centro di una fosca vicenda di delitti. Pochi giorni or sono in paese gli hanno ucciso il fratello. Fatto incredibile nella storia del banditismo sardo, non si è vendicato. Addossati ad una roccia gli poniamo delle domande. Per rispondere Grussotto, che in sardo significa grassoccio, fa appello alle poche parole di italiano che conosce. Chi sei? Sono Giuseppe Muscau, detto Grussotto. Cosa fai? Latitante, circa 3 anni. Come vivi? Vivo nelle rocce del sopramonte come un cinghiale. Grussotto, ti ritieni colpevole o innocente? Sono completamente innocente dei delitti quali che mi hanno accusato e spero nel processo che venga riconosciuta la mia innocenza. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce d'autore, ma anche di Storiacce, la versione invernale, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!